Capitolo quarto. Con qualche guinea residua della vendita della sua decima perla, Orlando si era comprata un corredo completo di abiti femminili alla moda di quel tempo ed era nei panni di una giovane inglese di rango che ora sedeva sul ponte della Enamored Lady. Strano ma vero, fino a quel momento si era preoccupata poco o nulla del suo sesso. Forse i pantaloni alla turca indossati sino allora avevano contribuito a quell'indifferenza. E poi le zingare. Salvo che in uno o due particolari importanti differiscono pochissimo dagli zingari. Ad ogni modo, fu solo quando sentì l'impaccio delle gonne sulle gambe e quando il capitano, con la più grande cortesia, le offrì di far alzare per lei una tenda sul ponte che si rese conto, con un sussulto, degli svantaggi e dei privilegi della sua situazione. Ma la sorpresa non era del genere che si poteva prevedere. Vale a dire che non era stata provocata dal pensiero puro e semplice della sua castità e di come conservarla. In circostanze normali, una donna sola, bella e giovane, non avrebbe pensato ad altro perché l'intero edificio della femminilità è fondato su questa pietra. La castità è il gioiello delle donne, la loro chiave di volta, che proteggono ad ogni costo e quando ne vengono spogliate a forza, muoiono. Ma se una è stata uomo per circa 30 anni e per di più ambasciatore, se ha tenuto tra le braccia una regina e un paio di dame, se le voci sono vere, di rango inferiore, se ha sposato una Rosina Pepita e così via, forse non trasale più di tanto a quel pensiero. La sorpresa provata da Orlando era di natura molto complessa e impossibile a riassumersi in un minuto. Le ci volle tutta la durata del viaggio per scoprire la vera ragione del suo sussulto, e così noi la seguiremo passo passo. Dio, pensò quando si fu riavuta dalla sorpresa, sdraiandosi lunga distesa sotto la tenda. Certo, questa vita pigra è piacevole, ma, pensò scalciando, queste gonne intorno ai tacchi sono una maledizione. Pure, la stoffa, broccato a fiori, è la più bella del mondo. Non ho mai visto la mia carnagione, e qui si mise una mano sul ginocchio, messa in risalto come ora. Ma potrei saltare in acqua oltre il parapetto e nuotare con questi vestiti? No. Dunque dovrei affidarmi alla protezione di un marinaio. Ho forse qualcosa in contrario? Sì o no? Esitava a quel primo nodo della soffice matassa del suo ragionamento. Prima che fosse riuscita a scioglierlo, giunse l'ora di pranzo e allora fu il capitano in persona, il capitano Nicholas Benedict Bartolus, un uomo di mare dall'aspetto distinto, a farlo per lei, mentre le serviva una fetta di manzo in salamoia. Un po' di grasso, signora? Le chiese. Permettetemi di tagliarvene una fettina sottile come una delle vostre unghie. A quelle parole si sentì percorrere tutta da un fremito delizioso. Cantarono uccelli, scrosciarono torrenti. Ricordò l'indescrivibile senso di piacere provato la prima volta alla vista di Sasha, secoli prima. Allora inseguiva o fuggiva? Qual è l'estasi maggiore? Quella dell'uomo o quella della donna? O non è forse la stessa? No, pensò, questa è più deliziosa, ringraziando il capitano ma rifiutando. Rifiutare e vederlo arrabbiarsi. E va bene, visto che lui lo desiderava, avrebbe accettato la più trasparente, la più piccola fettina del mondo. È questa la cosa più deliziosa, cedere e vederlo sorridere. Nulla, pensava, tornando al suo giaciglio sul ponte e riprendendo il ragionamento, è più celestiale che resistere e cedere, cedere e resistere. Getta l'animo in un'estasi che non ha l'uguale. Cosicché, non so, poi, continuò, se non mi getterò fuori bordo, dopo tutto, per il solo piacere di essere salvata da un marinaio. Bisogna ricordare che era come un bambino che viene in possesso di un oggetto meraviglioso o di un armadio di giocattoli. I suoi ragionamenti, quindi, non erano quelli delle donne mature che hanno dietro di sé l'esperienza di una vita. Ma che cosa dicevamo noi giovanotti nel castello di prua della Mary Rose, delle donne che si gettano in acqua per il piacere di farsi ripescare da qualche marinaio? Disse. Le chiamavamo. Ah sì, ecco. Siamo costretti a omettere quella parola assolutamente irriverente che suonava strana sulle labbra di una signora. Dio, Dio, esclamò di nuovo, come a conclusione dei suoi pensieri. Devo dunque cominciare a rispettare l'opinione dell'altro sesso, benché mi sembri mostruosa. Se porto delle gonne, se non so nuotare, se devo essere salvata da un marinaio, per Dio, gridò, devo farlo. Al che fu presa dall'umor nero. Candida per natura e nemica di ogni tipo di equivoco, mentire le dava fastidio. Eppure rifletteva il broccato a fiori il piacere di essere salvata da un marinaio, se si potevano ottenere solo per vie traverse, per quelle bisognava passare. Ricordava che, quando era un giovanotto, aveva sostenuto che le dame devono essere obbedienti, caste, profumate e squisitamente abbigliate. Ora dovrò soddisfare di persona questi desideri, rifletté, perché le donne, a giudicare dalla mia breve esperienza del sesso, non sono né obbedienti, né caste, né profumate, né squisitamente abbigliate, per natura. Possono arrivare a possedere queste grazie, senza le quali è loro impossibile godere dei piaceri della vita, solo per mezzo della più tediosa disciplina. C'è la pettinatura, continuò, che mi occuperà da sola un'ora per mattina. C'è da guardarsi allo specchio per un'altra ora, c'è da stringere e allacciare il busto, c'è da lavarsi e incipriarsi, c'è da cambiare il vestito di seta con quello di merletto e quello di merletto con quello di broccato e rimanere casta dal primo all'ultimo giorno dell'anno. A questo punto agitò il piede con impazienza e scoprì qualche pollice di gamba. Un marinaio, sull'albero maestro a cui capitò di guardare in giù in quel momento, trasalì con tanta violenza che mise un piede in fallo e si salvò solo per un pelo. Se la vista delle mie caviglie significa la morte di un bravo uomo che ha, senza dubbio, moglie e figli da mantenere, è necessario che per amore dell'umanità le tenga coperte, pensò Orlando. Eppure le gambe erano tra le sue bellezze principali. E si mise a meditare sull'assurdità che una donna debba tenere coperte tutte le sue bellezze perché un marinaio non cada dall'albero maestro. Che vadano al diavolo, esclamò, comprendendo per la prima volta quello che in altre circostanze le sarebbe stato insegnato fin da bambina, cioè le sacre responsabilità della condizione femminile. Ed ecco l'ultima bestemmia che potrò concedermi, pensò, una volta messo piede sul suolo inglese, e non potrò mai più rompere la testa a un uomo, né dirgli che mente per la gola, né estrarre la spada e passarlo da parte a parte, e non potrò sedere tra i miei pari, né portare una corona, né andare in processione, né condannare a morte un uomo, né comandare un esercito, né caracollare su un palafreno a Whitehall, né portare 72 medaglie sul petto. Tutto quel che potrò fare dopo che avrò messo piede sul suolo inglese sarà servire il tè e chiedere ai signori come lo preferiscono. Zucchero, un po' di crema? E mentre pronunciava leziosamente quelle parole, capì con orrore quale bassa opinione si andava facendo dell'altro sesso, quello maschile al quale un giorno aveva avuto l'orgoglio di appartenere. Cadere da un albero maestro, pensò, per aver visto una caviglia di donna. Vestire come un burattino e pavoneggiarsi per strada per farsi ammirare dalle donne, rifiutare a una donna l'istruzione per paura che rida di te, essere schiavo della più insipida mocciosa in gonnelle, eppure andare in giro con l'aria da re della creazione. Cielo, pensò, come si fanno gioco di noi e che stupide siamo. E qui, da una certa ambiguità delle sue parole, si sarebbe potuto ritenere che criticasse entrambi i sessi, come se non appartenesse né all'uno né all'altro. E in effetti per ora sembrava vacillare, era un uomo, era una donna, conosceva i segreti, condivideva le debolezze di entrambi. Era in uno stato d'animo assolutamente sconcertante e vertiginoso. Le era del tutto negato il conforto dell'ignoranza. Era una piuma in balia del turbine, non c'è dunque da meravigliarsi se confrontando un sesso con l'altro e trovandoli a turno pieni delle più deplorevoli debolezze e incerta se apparteneva all'uno o all'altro. Non c'è dunque da meravigliarsi se fu sul punto di mettersi a gridare che voleva tornare in Turchia e ridiventare zingara quando l'ancora cadde in mare con un grande scroscio. Le vele si afflosciarono sul ponte e si accorse, per vari giorni era stata così assorta nei suoi pensieri da non vedere nulla, che la nave era ancorata al largo della costa italiana. Il capitano mandò subito a chiederle l'onore di accompagnarlo a terra, nella sua scialuppa. Quando tornò, il mattino dopo, si distese sul divano sotto la sua tenda e si dispose le vesti intorno alle caviglie nel modo più decoroso possibile. Ignoranti e povere come siamo a paragone dell'altro sesso, pensava, riprendendo la frase interrotta il giorno prima, e con tutte le armi che possiedono a loro difesa, mentre ci vietano perfino di imparare l'alfabeto. E da queste parole iniziali è chiaro che durante la notte era accaduto qualcosa che l'aveva fatta propendere per il sesso femminile, perché ora parlava piuttosto da donna che da uomo, anche se con una certa soddisfazione in fondo. Eppure cadono dall'albero maestro. Qui fece un grande sbadiglio e cadde addormentata. Quando si svegliò, la nave, spinta da una brezza propizia, veleggiava così vicino alla costa che i villaggi a picco sugli scogli le sembrarono trattenuti dal franare in acqua soltanto dall'interporsi di una grande roccia o dalle radici contorte di qualche antico ulivo. Il profumo degli aranci esalava da un milione di alberi carichi di frutti, giungendole fin sul ponte. Una frotta di delfini azzurri, torcendo la coda, faceva dei balzi intermittenti nell'aria. Tendendo le braccia, aveva già imparato, non hanno effetti fatali come le gambe, ringraziò il cielo di non dover caracollare per Whitehall su un cavallo da guerra, né condannare a morte un uomo. Meglio, pensò, essere vestita di povertà e di ignoranza, oscura divisa del sesso femminile. Meglio lasciare ad altri il governo e l'ordinamento del mondo. Meglio spogliarsi di ambizioni marziali, dell'amore per il potere, di tutti gli altri desideri virili, se così si possono gustare appieno i più esaltati rapimenti conosciuti dall'animo umano, che sono, disse ad alta voce, come era sua abitudine quando si sentiva profondamente commossa, contemplazione, solitudine e amore. Grazie a Dio sono donna, esclamò, e stava per incorrere nell'estrema follia, la più funesta sia per l'uomo che per la donna, di essere orgogliosa del proprio sesso, quando si soffermò su quella parola singolare che, nonostante i nostri sforzi per tenerla a posto, si è insinuata in coda all'ultima frase. Amore. Amore, aveva detto Orlando. Subito, tale è il suo impeto, l'amore prese forma umana. Tale è il suo vanto, perché mentre gli altri pensieri si accontentano di restare astratti, niente potrà soddisfare quest'ultimo finché non abbia vestito carne e sangue, scialli e gonne, stivali e giustacuore. E poiché tutti gli amori di Orlando erano stati donne, ora, a causa della colpevole riluttanza della natura umana ad adattarsi alle nuove convenzioni, benché fosse donna, amava ancora una donna. E se la coscienza di essere dello stesso sesso sortì su di lei qualche effetto, fu di ravvivare e approfondire quei sentimenti che aveva provato da uomo. Perché ora mille sospetti e misteri, una volta oscuri, le si chiarivano. Ora l'oscurità che divide i sessi e lascia allignare innumerevoli impurità nella penombra si era dissipata. E se c'era del vero in quel che dice il poeta sulla verità e sulla bellezza, quell'affetto guadagnò in bellezza ciò che aveva perduto in falsità. Finalmente, esclamò, conosceva Sasha com'era realmente, e nell'entusiasmo della scoperta, e intenta com'era alla ricerca di tutti i tesori che le si rivelavano, era così rapita ed estasiata che le rintronò all'orecchio come un colpo di cannone la voce maschile che diceva: Permettetemi, signora! E una mano maschile la aiutava ad alzarsi, e delle dita maschili con un tre alberi tatuato sul medio indicavano l'orizzonte. La scogliera inglese, signora, disse il capitano, e alzò verso il cielo in segno di saluto la mano che aveva indicato la terra. Orlando ebbe un altro sussulto, ancora più violento del primo. Signore Gesù! Esclamò. Fortunatamente la vista della sua terra natia, dopo lunga assenza, scusava tanto il sussulto quanto l'esclamazione. Altrimenti le sarebbe stato molto difficile spiegare al capitano Bartolus le violente e contrastanti emozioni che le ribollivano dentro, come spiegargli che lei, ora tremante al suo braccio, era stata duca e ambasciatore, come fare a dirgli che lei, ora avvolta come un giglio in pieghe di broccato, aveva mozzato teste e giaciuto con donne perdute tra i sacchi del bottino, nella stiva di navi pirata, nelle notti estive, quando i tulipani sono in fiore e le api sciamano ronzando a Wapping All Stairs. Il violento sussulto che aveva avuto quando l'energica destra del capitano le aveva indicato le scogliere delle isole britanniche non avrebbe potuto spiegarlo neanche a se stessa. Rifiutare e cedere, mormorò. Che cosa deliziosa! Inseguire e conquistare, che cosa nobile! Percepire e ragionare, che cosa sublime! Nessuna di quelle parole così congiunte le sembrava sbagliata. Eppure, mentre le scogliere gessose grandeggiavano sempre più, si sentì colpevole, disonorata, impura. La qualcosa, per chi non le aveva mai dato peso, era strana. Si accostavano rapidamente. Già si scorgevano chiari a occhio nudo i raccoglitori di finocchi marini arrampicati a mezza costa. E guardandoli sentì scorrazzare dentro di sé, fantasma beffardo che pareva pronto a strapparle le gonne e a dileguarsi, Sasha la perduta, Sasha Sasha la memoria, di cui sentiva in quel momento tutta la sorprendente realtà. Sasha che faceva smorfie e boccacce e ogni sorta di gesti osceni verso le scogliere e i raccoglitori di finocchi. E quando i marinai cominciarono a cantare «Addio dunque a voi, donne di Spagna!», le loro parole risuonarono nel cuore triste di Orlando e sentì che sebbene quell'approdo significasse per lei comodità, ricchezze, influenza e rango, poiché senza dubbio avrebbe sposato qualche nobile principe regnato a suo fianco su mezzo Yorkshire, pure, se avesse significato convenzionalità, schiavitù, delusioni, rinuncia all'amore, imporre catene al corpo, cucirsi la bocca e tenere a freno la lingua, allora piuttosto avrebbe virato di bordo e fatto di nuovo vela per il paese degli zingari. Nel tumulto di quei pensieri, tuttavia, sorse, come una cupola di marmo bianco e liscio, qualcosa che, fosse realtà o immaginazione, colpì tanto la sua fantasia da calamitarla, come uno sciame di tremule libellule si posa, con visibile soddisfazione, sulla campana di vetro che protegge qualche vegetale delicato. Quella forma, per uno scherzo dell'immaginazione, suscitò in lei il ricordo più lontano e persistente, l'uomo dalla fronte ampia nel salotto di Twitchett, l'uomo seduto a scrivere, o piuttosto a guardare, ma certamente non lei, perché non dette mai segno di vedere come sospeso nella sua bellezza il delizioso ragazzo che, non poteva negarlo, doveva essere stata. E come ogni volta che pensava a lui, quel pensiero diffuse intorno a sé un velo di calma argentea, come il sorgere della luna su acque agitate. Portò una mano al petto, l'altra era ancora trattenuta dal capitano, là dove aveva nascosto al sicuro le pagine del suo poema. Era come se vi tenesse un talismano. Lo sconcerto sul suo sesso, su quale fosse e che cosa comportasse, svanì. Ora non pensava che alle glorie della poesia e i grandi versi di Marlowe, Shakespeare, Ben Jonson, Milton cominciarono a risuonare e a echeggiare, come se un battaglio d'oro percuotesse una campana d'oro in quel campanile di cattedrale che era il suo animo. Per la verità, l'immagine della cupola di marmo che dapprima le si era presentata agli occhi tanto incerta da suggerirle il ricordo di una fronte di poeta, suscitando un turbine di idee assurde, non era finzione, ma realtà. E mentre la nave avanzava lungo il Tamigi, spinta da un vento propizio, l'immaginazione con tutte le sue associazioni cedette il posto alla verità, rivelandosi né più né meno che la cupola di una grande cattedrale, svettante tra un ricamo di guglie bianche. San Paolo, disse il capitano Bartolus che le stava al fianco, la torre di Londra, continuò, l'ospedale di Greenwich, eretto in memoria della regina Maria da suo marito, sua maestà il defunto re Guglielmo III, l'abbazia di Westminster, il Parlamento. Mentre parlava, ognuno di quei celebri edifici sorgeva alla vista. Era un bel mattino di settembre, una miriade di piccole barche si incrociava da una riva all'altra. Agli occhi di un viaggiatore sulla via del ritorno, di rado si era presentato uno spettacolo più gaio e interessante. Orlando stava affacciata, a prua, assorta nello stupore. Da troppo tempo i suoi occhi erano abituati alla vista di selvaggi o della pura natura, per non essere incantati da quelle glorie urbane. Quella, dunque, era la cupola di San Paolo che Wren aveva costruito durante la sua assenza. Non lontano un fulgore di chioma d'oro brillò sull'alto di una colonna. Il capitano Bartolus, sempre a suo fianco, la informò che quello era il monumento. Mentre lei era lontana, disse c'erano state la peste e l'incendio. Per quanto si sforzasse di trattenerle, le vennero le lacrime agli occhi, finché, ricordando che il pianto si addice a una donna, le lasciò scorrere liberamente. Era stato qui, pensò, il gran carnevale, qui dove ora le onde si frangevano vivaci, sorgeva il padiglione reale. Qui aveva incontrato Sasha per la prima volta, più o meno qui, e scrutava le acque scintillanti. Ci si era abituati a vedere la donna congelata nel suo battello con le sue mele in grembo. Tutto quello splendore e quella corruzione erano scomparsi. Ed era ugualmente scomparsa la notte oscura dello spaventoso acquazzone, le ondate travolgenti del disgelo. Qui, dove correvano turbinando gli iceberg giallognoli gremiti di sventurati impazziti di terrore, galleggiava una covata di cigni alteri, fluttuanti e superbi. Londra stessa era completamente cambiata da quando l'aveva vista l'ultima volta. Allora, ricordava, Era un ammasso di casupole nere prominenti come blatte. Le teste dei ribelli ghignavano sulle picche a Temple Bar. L'acciottolato era coperto di immondizie e rifiuti. Ora, mentre la nave passava davanti a Wapping, intravide strade larghe e ben ordinate, maestose carrozze tirate da pariglie di cavalli ben nutriti stavano alle porte di case le cui finestre rotonde, i vetri a specchio, i pomidottoni lucidi denotavano la ricchezza, la contegnosa dignità dei loro abitanti. Dame vestite di seta a fiori, guardava col cannocchiale del capitano, passeggiavano su marciapiedi rialzati. Borghesi in giacche ricamate fiutavano tabacco agli angoli di strada sotto i lampioni. Scorse una gran varietà di insegne dipinte che dondolavano alla brezza e da ciò che vi era raffigurato sopra si fece rapidamente un'idea di ciò che vi si vendeva. Tabacco, stoffe, seta, oro, argenterie, guanti, profumi ed altre mille mercanzie. E mentre la nave scivolava verso il suo ancoraggio presso il ponte di Londra, poté solo gettare un'occhiata di sfuggita alle finestre dei caffè, sulle cui terrazze, il tempo era bello, era seduto un gran numero di dignitosi borghesi davanti a piatti di porcellana con le pipe di terracotta accanto, e uno di loro leggeva la Gazzetta, interrotto di frequente dalle risa e dai commenti degli altri. Erano quelle le taverne, erano quelli gli uomini d'ingegno, erano quelli i poeti? Chiese al capitano Bartolus, il quale si premurò di informarla che proprio in quel momento, se avesse voltato un po' la testa a sinistra e guardato dove indicava il suo dito, là, stavano passando sotto alla palma di cocco. Sì, eccolo là, c'era Addison che beveva il caffè, gli altri due signori, là, signora, a destra del lampione, uno dei due, Gobbo, l'altro proprio come voi e me. Erano Dryden e Pope. Canaglie, disse il capitano, alludendo al fatto che erano papisti, ma non di meno aggiunse uomini d'ingegno e si affrettò verso poppa per sorvegliare le operazioni di sbarco. Addison, Dryden, Pope, ripeté Orlando come se quelle parole fossero un incantesimo. Rivide per un momento gli alti monti sopra Brussa, il momento dopo aveva posato il piede sul suo suolo natio. Ma Orlando dove presto imparare quanto poco valga l'onda della più imperiosa passione contro il corso della legge e come questa sia più dura delle pietre del ponte di Londra e più severa della bocca di un cannone. Era appena tornata nella sua casa a Blackfriars che una processione di corrieri di Bow Street e altri dignitosi emissari dei tribunali vennero a citarla in giudizio in tre cause importanti intentate contro di lei durante la sua assenza e in innumerevoli altre minori, alcune annesse, altre connesse. Le principali imputazioni a suo carico erano: primo, che era defunta e quindi non poteva possedere alcuna proprietà; secondo, che era una donna, il che comportava pressappoco la stessa cosa; terzo, che era un duca inglese sposato a una certa Rosina Pepita, ballerina, da cui aveva avuto 3 figli, i quali ora, dichiarando essere il loro padre defunto, reclamavano la successione in tutte le sue proprietà. Controbattere accuse così gravi avrebbe richiesto tempo e denaro. Intanto tutti i suoi beni erano stati bloccati e tutti i suoi titoli nobiliari sospesi in attesa del giudizio. Orlando si trovava quindi in una situazione fortemente ambigua, incerta se fosse viva o morta, uomo o donna, duca o nullità, mentre in una carrozza di posta si dirigeva verso la sua residenza di campagna, dove aveva ottenuto dalla legge il permesso di abitare per tutta la durata dei processi, purché in incognito. Quando arrivò, era una bella sera di dicembre e cadeva la neve, e le ombre violette erano oblunghe proprio come quelle che aveva visto dall'alto delle colline di Brussa. La grande casa, più un borgo che una casa, era là, nella neve, bruna e azzurra, rosea e violetta, con tutti i camini che fumavano alacremente come animati da vita propria. Orlando non poté trattenere un grido quando la vide, placida e massiccia, adagiata sui prati. Quando la carrozza gialla entrò nel parco per il viale alberato, i daini fulvi alzarono il capo come in attesa, e fu notato che, invece di mostrare la naturale ritrosia della loro specie, seguirono la carrozza e rimasero nel cortile quando si fermò. Alcuni scossero le corna, altri rasparono per terra con gli zoccoli, quando fu abbassato il predellino e Orlando scese. Si dice perfino che uno si sia inginocchiato nella neve davanti a lei. Non ebbe neppure il tempo di alzare la mano per bussare, che i due battenti del portale si spalancarono, e con fiaccole e torce alte sopra le teste, vi apparvero la governante, il reverendo Dapper e l'intera servitù accorsa a darle il benvenuto. Ma la composta sfilata fu interrotta, prima da Canuto, il levriero che si slanciò sulla padrona con tale impeto da gettarla quasi a terra, poi dall'agitazione della governante che, volendo fare un inchino, fu sopraffatta dall'emozione. E riusciva solo a balbettare: «Milord, miledi, miledi, milord!» finché Orlando la riconfortò con un gran bacio su ambo le guance. Dopodiché il reverendo Dapper cominciò a leggere una pergamena, ma l'abbaiare dei cani, il suono dei corni dei cacciatori, i cervi che nella confusione si erano introdotti nel cortile e bramivano alla luna, gli impedirono di proseguire a lungo. E la compagnia, dopo essersi affollata intorno alla padrona per testimoniarle in tutti i modi la grande gioia del suo ritorno, rientrò e si disperse. Nessuno mostrò di dubitare per un solo istante che Orlando non fosse quell'Orlando che avevano conosciuto, e se nell'animo umano ci fosse stato qualche dubbio, il comportamento dei cervi e dei cani sarebbe stato sufficiente a dissiparlo, perché le creature prive di parola, è noto, sono giudici assai migliori di noi sull'identità e sul carattere di una persona. Anzi, disse quella sera la governante al reverendo Dapper, al di sopra della sua tazza di tè cinese, se il suo lord adesso era una lady, lei non ne aveva mai vista una più bella e sarebbe stata molto imbarazzata a scegliere fra l'uno e l'altro. Erano entrambi ugualmente dotati, si somigliavano come due gocce d'acqua e del resto, aggiunse la governante, assumendo un tono confidenziale, lei lo aveva sempre sospettato. E qui scosse il capo con aria molto misteriosa, e la cosa non l'aveva sorpresa, e scosse il capo con l'aria di saperla lunga. Piuttosto era un gran sollievo, perché con le tovaglie che avevano bisogno di rammendo e le tende del salotto del cappellano con le frange tutte mangiate dalle tarme, era ora che in casa ci fosse una padrona. Senza contare i padroncini e le padroncine che verranno, aggiunse il reverendo Dapper, che in virtù del suo santo ministero aveva il privilegio di potersi esprimere chiaramente su questioni tanto delicate. Così, mentre i vecchi servitori spettegolavano nelle loro stanze, Orlando prendeva un candeliere d'argento e vagava di nuovo per le sale, le gallerie, i cortili. Vedeva di nuovo chinarsi verso di lei il volto cupo di questo o di quel lord, guardasigilli o ciambellano, suo antenato. Ora si sedeva su un seggio, ora si sdraiava su un divano. Contemplava l'ondeggiare dell'arazzo, guardava i cacciatori al galoppo e Daphne fuggitiva. Immergeva la mano, come amava fare da bambino, nella pozza di luce gialla distesa dalla luna che cadeva attraverso il leopardo araldico della vetrata. Scivolava sulle tavole levigate della galleria. Grezze dall'altro lato, palpava questa seta o quel raso. Immaginava di veder nuotare i delfini intagliati, si spazzolava i capelli con la spazzola d'argento di Re Giacomo, tuffava il viso nel pot-pourri, fatto come aveva insegnato loro molti secoli prima il conquistatore, e con le stesse rose. Si affacciava a guardare il giardino e immaginava i crochi dormienti e le dalie assopite. Vedeva le fragili ninfe splendere bianche tra la neve contro le grandi siepi nere di bosso, massicce come una casa. Vedeva le arancere, i nespoli giganti, tutto questo vedeva, e ogni visione, e ogni suono, da noi descritti così rozzamente, le riempiva il cuore di tanta consolante gioia estatica, che infine, esausta, entrava nella cappella e si lasciava cadere nella vecchia poltrona rossa nella quale solevano sentir messa i suoi antenati. Accendeva un cirò, abitudine presa in Oriente, e apriva il libro delle preghiere. Era un libretto rilegato in velluto e trapunto d'oro che Maria, regina di Scozia, aveva stretto tra le mani sul patibolo, e l'occhio della fede poteva scorgervi una macchiolina brunastra che si diceva fosse una goccia del sangue regale. Ma quali pensieri devoti risvegliasse in Orlando, quali passioni malvagie estinguesse, chi potrebbe dirlo, visto che di tutte le comunioni, quella dell'uomo con la divinità è la più imperscrutabile. Romanzieri, poeti, storici, tutti esitano con la mano tesa a questa porta. Neppure lo stesso credente può illuminarci. È forse più pronto degli altri a morire o più zelante a distribuire le sue ricchezze? Non mantiene forse altrettanta servitù e cavalli per le sue carrozze? Eppure professa una fede che a suo dire dovrebbe far considerare i beni vanità e la morte desiderabile. Nel libro di preghiere della regina, insieme alla macchia di sangue c'era anche un ricciolo di capelli e una briciola di pasticcino. Orlando aggiunse ora a quelle reliquie un pizzico di tabacco e così, leggendo e fumando, Si commosse all'umana cozzaglia di quelle cose, i capelli, il pasticcino, la macchia di sangue, il tabacco, fino a raggiungere uno stato d'animo contemplativo che le conferì un'aria di gravità adatta alle circostanze, per quanto non avesse, si dice, alcun commercio col Dio abituale. Eppure non c'è nulla di più arrogante di questa affermazione, pur tanto comune, cioè che di tutti gli dèi ne esiste uno solo e una sola religione, quella di chi parla. Orlando, pare, aveva una fede tutta sua. Ora, con grande ardore religioso, rifletteva sui suoi peccati e sulle sue imperfezioni che si erano insinuate nella sua vita spirituale. La lettera S, rifletteva, è il serpente nell'Eden del poeta. Malgrado i suoi sforzi, c'erano ancora troppi di quei rettili peccaminosi nelle prime stanze della quercia. Ma le S non erano nulla a suo giudizio in confronto alle terminazioni in ente. Il participio presente è il diavolo in persona, pensava, ora che ci troviamo in un luogo adatto per credere ai diavoli. Fuggire queste tentazioni è il primo dovere del poeta, concluse, perché essendo l'orecchio l'anticamera dell'anima, la poesia può corrompere e distruggere più della lussuria e della polvere da sparo. La missione del poeta è dunque la più alta di tutte, continuò. Le sue parole giungono dove le altre non sono udite. Al povero e al malvagio ha giovato di più una canzoncina di Shakespeare che non tutti i predicatori e i filantropi del mondo. E né tempo né devozione sono mai eccessivi, se sono spesi per rendere meno distorto il veicolo del nostro messaggio. Dobbiamo modellare le nostre parole fino a farle diventare l'involucro più sottile dei nostri pensieri. I pensieri sono divini. È chiaro dunque che Orlando si rinchiudeva in una sua religione personale, che il tempo aveva solo rafforzato durante la sua assenza e che stava rapidamente acquisendo l'intolleranza del credente. Invecchio, pensò, riprendendo infine il candeliere. Sto perdendo delle illusioni, aggiunse chiudendo il libro della Regina Maria, forse per acquistarne altre. E scese fra le tombe dove giacevano le ossa dei suoi avi. Ma anche le ossa degli antenati, Sir Miles, Sir Gervase e tutti gli altri, avevano perso un po' della loro santità da quando quella sera Rustum al-Sadi le aveva mostrato con un gesto ampio i monti dell'Asia. Il fatto che 300 o 400 anni prima quegli scheletri fossero stati uomini che avevano cercato di farsi strada nel mondo come qualunque arrivista moderno, e che vi fossero riusciti conquistando case e cariche, giarrettiere e decorazioni come qualunque altra arrivista, mentre dei poeti, uomini di grande intelletto e scienza, avevano preferito la pace della campagna e avevano scontato questa scelta con la miseria nera, cosicché ora facevano i giornalai ambulanti nello Strand o pascolavano le pecore, la riempiva di rimorso. Nella cripta pensò alle piramidi d'Egitto e alle ossa che racchiudono, e i vasti deserti altipiani che dominano il Mar di Marmara le parvero in quel momento una dimora più bella di quella sua dalle molte stanze, in cui non c'era letto senza trapunta, né piatto d'argento senza coperchio gemello. Invecchio, pensò, prendendo il candeliere, perdo le mie illusioni per acquistarne forse di nuove, e per la lunga galleria si avviò verso la sua camera. Quel processo mentale era sgradevole e faticoso, ma era straordinariamente interessante, pensò, allungando le gambe davanti al ceppo che ardeva. Non c'erano marinai presenti. E passò in rassegna, come una strada con grandi edifici, l'evoluzione del suo io nel corso del suo passato. Come aveva amato il suono da ragazzo, il flutto di sillabe tumultuose che escono dalle labbra, gli sembrava l'acme della poesia. Poi, forse a causa di Sasha e della disillusione da lei provocata, in quella gran frenesia era caduta qualche goccia nera che aveva sopito il suo lirismo. Lentamente si era aperto in lei un dedalo intricato e plurimo di stanze, che bisognava esplorare con la torcia, in prosa e non in versi, e ricordò con quanta passione aveva studiato allora le opere di quel dottore di Norwich, Brown, il cui libro aveva là a portata di mano. Lì, in solitudine, dopo la vicenda con Green, si era formata, o aveva tentato di formarsi, lo sa il cielo quanto queste crescite siano annose, uno spirito capace di resistenza. Scriverò, si era detta, quel che mi piacerà scrivere. E così aveva scrivacchiato 26 volumi. Eppure, malgrado tutti i viaggi, le avventure, le profonde meditazioni e i diversi orientamenti, era ancora in via di elaborazione. Cosa le avrebbe riservato il futuro, solo il cielo lo sapeva. Il mutamento era incessante e forse non avrebbe mai avuto fine. Alte costruzioni di pensiero, abitudini che erano parse durature come la pietra, erano dileguate come ombre al tocco di un'altra mente, lasciando un cielo nudo, scintillante di stelle sorgive. A questo punto si avvicinò alla finestra e, malgrado il freddo, non poté fare a meno di aprirla. Si affacciò nell'aria umida della notte, udì una volpe ululare nei boschi e un fagiano sgusciare fra i rami. Sentì la neve scivolare giù dal tetto e cadere mollemente al suolo. «Per la mia vita!» esclamò. «Questo è mille volte meglio della Turchia!» «Rustum!» esclamò, come se discutesse con lo zingaro, e con questa nuova facoltà di tenere presente una discussione e di continuarla con un'assente che non poteva contraddirla, confermava la sua evoluzione interiore. «Avevi torto!» È meglio questo della Turchia. Capelli, pasticcini, tabacco. Di che accozzaglia siamo composti? Disse e pensava al libro di preghiere della Regina Maria. Che fantasmagoria è la nostra mente, che luogo di incontro di cose dissimili. Ora deploriamo la nostra nascita, la nostra condizione e aspiriamo a un'esaltazione ascetica, poi siamo sopraffatti dal profumo di qualche vecchio sentiero di giardino e piangiamo al canto dei tordi. È sconcertata, come al solito, dalla moltitudine di cose che richiedono spiegazione e ci inviano un messaggio lasciando indecifrato il loro senso, gettò il cerotto dalla finestra e andò a letto. La mattina dopo, sulla scia di questi pensieri, prese carta e penna e si rimise a lavorare alla quercia. Avere inchiostro e carta in quantità, quando ci si è dovuti accontentare di more e di margini, è un piacere incredibile. Era dunque intenta ora a cancellare una frase nella più cupa disperazione, ora a scriverne un'altra nell'estasi più sublime. Quando un'ombra oscurò la pagina, nascose in fretta il manoscritto, poiché la sua finestra dava sul cortile più interno della casa e aveva ordinato di non far entrare nessuno, non conosceva nessuno ed era lei stessa legalmente sconosciuta, dapprima quell'ombra la sorprese, poi la indignò. Infine, quando alzò gli occhi e ne vide la fonte, fu sopraffatta dall'ilarità. Era un'ombra familiare, un'ombra grottesca, niente meno che l'ombra dell'arciduchessa Harriet Griselda di Finster, Herrhorn e Skand op Bohn, in terra di Romania. Eccola che attraversava saltellando il cortile, col vecchio abito da amazzone e il mantello di un tempo. Non era cambiata di un capello. Era quella donna, dunque, la donna che l'aveva costretta a fuggire dall'Inghilterra. Era quello il nido dello sceno avvoltoio, il fatale rapace in persona. Al pensiero di essere fuggita fino in Turchia per scampare alle sue seduzioni, ora fin troppo sbiadite, Orlando scoppiò in una gran risata. In quella vista c'era qualcosa di indicibilmente comico. Somigliava in tutto e per tutto, come Orlando aveva già osservato, a una mostruosa lepre. Di quell'animale aveva gli occhi fissi, le guance cascanti, il ciuffo eretto. Ora si era fermata, proprio come una lepre immobile nel Gran Turco, alta sulle zampe, che si crede inosservata. E guardò fissa Orlando, che dalla finestra le rimandò lo stesso sguardo. Rimasero a guardarsi così, per un po' di tempo. Poi non restò altro da fare che invitarla ad entrare. Un minuto dopo le due signore si scambiavano ossequi, mentre l'arciduchessa si scuoteva la neve dal mantello. «Maledette le donne», disse Orlando tra sé, andando a prendere un bicchiere di vino nella credenza, «non ti lasciano mai in pace. Non c'è razza più curiosa, più ficcanaso, più intrigante. Per sfuggire a questa stangona ho lasciato l'Inghilterra, e ora?» Qui si voltò per offrire il vassoio all'arciduchessa e, oh, meraviglia! Al suo posto c'era un gentiluomo alto, vestito di nero, sul parafuoco un fagotto di vestiti. Era sola con un uomo? Richiamata così all'improvviso alla coscienza del proprio sesso, che aveva del tutto dimenticato, e di quello di lui, dal quale ora era tanto lontana da riuscirlo ugualmente imbarazzante, Orlando si sentì mancare. «Oh!» esclamò portandosi una mano al petto. «Come mi avete spaventata!» «Gentile creatura!» gridò l'arciduchessa cadendo in ginocchio e insieme avvicinandole alle labbra un cordiale. «Perdonatemi l'inganno in cui vi ho fatta cadere!» Orlando centellinò il vino e l'arciduca si inginocchiò e le baciò la mano. In breve, per 10 minuti rappresentarono le loro parti di uomo e di donna con grande impegno, poi passarono a una conversazione spontanea. L'arciduchessa, che d'ora in poi chiameremo arciduca, raccontò la sua storia. Era un uomo e lo era sempre stato. Aveva visto un ritratto di Orlando e se ne era innamorato perdutamente. Per raggiungere i suoi scopi si era vestito da donna e aveva preso alloggio dal fornaio. Allorché Orlando era fuggito in Turchia, era caduto nella disperazione, aveva sentito parlare della sua metamorfosi e si era affrettato a venire a offrirle i suoi servigi. E qui una serie insopportabile di hi e ha. Per lui, disse l'arciduca Henry, lei era e sarebbe sempre stata il prodigio, la perla, la perfezione del suo sesso. Quelle tre P sarebbero state più convincenti se non fossero state intercalate da risatine e singhiozzi incredibili. Se l'amore è questo, si disse Orlando mentre guardava l'arciduca seduto all'altro lato del parafuoco, e questa volta dal punto di vista femminile, mi pare una faccenda sommamente ridicola. L'arciduca Harry, gettatosi in ginocchio, le fece le più appassionate dichiarazioni d'amore. Le disse che possedeva qualcosa come 20 milioni di ducati in un forziere del suo castello. Aveva più acri di terra di qualsiasi gentiluomo inglese. La caccia vi era eccellente, poteva prometterle un carniere di pernici bianche e di galli cedroni con cui nessuna brughiera inglese o scozzese poteva competere. A dire il vero, durante la sua assenza i fagiani avevano sofferto di stomatite e le femmine di Dino avevano partorito prematuramente. Ma a questo si poteva rimediare e lei lo avrebbe aiutato quando avessero vissuto insieme in Romania. Mentre parlava, nei suoi occhi piuttosto sporgenti si formavano lacrime enormi e colavano sulla peluria rossiccia delle lunghe guance smunte. Gli uomini piangono altrettanto spesso e senza ragione quanto le donne. Orlando lo sapeva dalla sua esperienza di uomo, ma ora cominciava a capire che le donne dovrebbero urtarsi quando gli uomini sfoggiano emozioni in loro presenza. E così si urtò. L'arciduca si scusò, riuscì a dominarsi tanto da dirle che per ora se ne sarebbe andato, ma che sarebbe tornato il giorno dopo per la risposta. Quel giorno era martedì, tornò il mercoledì, tornò il giovedì, tornò il venerdì, tornò il sabato. È vero che ogni visita cominciava, proseguiva e si concludeva con una dichiarazione d'amore, ma negli intervalli c'era molto tempo per tacere. Sedevano ciascuno da un lato del caminetto e talvolta l'arciduca ricordava quando aveva ucciso un alce in Svezia e Orlando chiedeva se era un alce molto grosso e l'arciduca rispondeva che non lo era quanto la renna che aveva ucciso in Norvegia. E Orlando domandava se non aveva mai ucciso una tigre, e l'arciduca diceva di aver ucciso un albatros, e Orlando chiedeva, nascondendo a metà uno sbadiglio, se un albatros era grande come un elefante, e l'arciduca allora diceva qualcosa di molto sensato, senza dubbio, ma che Orlando non ascoltava perché guardava il suo scrittoio, o fuori della finestra, o la porta. Dopodiché l'arciduca diceva: Vi adoro. Nel preciso momento in cui Orlando diceva: Guarda un po', comincia a piovere. Al che restavano entrambi in grande imbarazzo e arrossivano, e nessuno dei due sapeva più cosa dire. In effetti, Orlando aveva esaurito le sue risorse di conversazione, e se non le fosse venuto in mente un gioco che chiamava Mosca Posati, un gioco al quale con scarsissimo sforzo di intelligenza si possono perdere grandi somme di denaro, immaginava che avrebbe finito per sposarlo. Altrimenti non avrebbe saputo come sbarazzarsi di lui. Con quello stratagemma assai semplice, che richiedeva solo 3 zollette di zucchero e qualche mosca, si superava l'imbarazzo della conversazione e si evitava la necessità del matrimonio. Ora l'arciduca scommetteva 500 sterline contro uno scellino che la mosca si sarebbe posata su quella zolletta di zucchero e non su questa. Così occupavano l'intera mattinata ad osservare le mosche. In quella stagione erano così intorpidite che spesso ci mettevano un'ora a fare il giro del soffitto. Finché una bella mosca blu bottiglia faceva la sua scelta e la partita era finita. Varie centinaia di sterline cambiarono così di mano a quel gioco che l'arciduca, giocatore nato, giurava non aver nulla da invidiare al puntare alle corse e assicurava che avrebbe potuto giocare all'infinito. Ma presto Orlando cominciò a stancarsi. A che mi serve essere una bella donna, giovane nel fiore degli anni, si chiedeva, se devo passare le mattinate a guardare le mosche blu bottiglia con un arciduca? Cominciò a detestare la vista dello zucchero, le mosche le davano il capogiro. Eppure ci deve essere una via d'uscita, pensava, ma era ancora maldestra nelle arti del suo sesso, e poiché non le era più permesso dare un colpo in testa a un uomo, né infilzarlo con lo stocco, escogitò un mezzo che le parve migliore. Acchiappò una mosca blu bottiglia, la schiacciò delicatamente, era già mezza morta, altrimenti la sua pietà per le creature priva di parola non glielo avrebbe consentito, e con una goccia di gomma arabica l'attaccò a una zolletta di zucchero. Mentre l'arciduca fissava il soffitto, sostituì abilmente il pezzetto a quello su cui aveva puntato e gridando «Posata, posata!» annunciò di aver vinto la posta. Sperava che l'arciduca, esperto di ogni specie di giochi e di scommesse sui cavalli, scoprisse la frode, e dato che barare a mosca posati è il più odioso dei delitti, e ci sono uomini che per questo motivo sono stati banditi per sempre dal consorzio civile e condannati a vivere fra le scimmie dei tropici, contava che lui si sarebbe sentito abbastanza uomo da rifiutare di avere più a che fare con lei. Ma aveva giudicato male la semplicità di quell'amabile gentiluomo. Di mosche non era un buon giudice. Per lui una mosca morta non era granché diversa da una viva. Orlando ripeté il trucco 20 volte e lui le pagò più di 17.250 sterline, che equivalgono a circa 40.850 sterline, 6 scellini e 8 pence in moneta corrente. Prima che lei barasse così grossolanamente che perfino lui non poté più cascarci. Quando finalmente capì la verità, seguì una scena penosa. L'arciduca si rizzò in tutta la sua altezza. Le lacrime gli rigavano le guance a una. Non contava nulla che lei gli avesse vinto una fortuna. Ne era felice. Contava qualcosa che lei lo avesse ingannato. Lo feriva il pensiero che ne fosse stata capace. Ma la cosa più enorme era che avesse barato a mosca posati. Amare una donna che barava al gioco, disse, era impossibile. E qui crollò del tutto. Per fortuna, disse, riprendendosi un po', non c'erano stati testimoni. Dopotutto, disse, lei era solo una donna. In breve, col suo cuore cavalleresco, era disposto a perdonarle, e già si prosternava a chiederle perdono della violenza del suo linguaggio, quando lei tagliò corto mentre lui chinava il capo orgoglioso, facendogli scivolare un piccolo rospo tra pelle e camicia. Per essere giusti con lei, va detto che avrebbe infinitamente preferito uno stocco. I rospi sono cose troppo viscide da nascondere sulla propria persona per un'intera mattinata. Ma se gli stocchi sono proibiti, si è costretti a ricorrere ai rospi. Rospi e risate insieme, inoltre, talvolta riescono dove il freddo acciaio fallisce. Lei rise, l'arciduca arrossì, lei rise, l'arciduca bestemmiò, lei rise, l'arciduca sbatté la porta. «Sia lodato il cielo!» esclamò Orlando, che rideva ancora. Udì le ruote di una carrozza rotolare a precipizio nel cortile. La udì rotolare lungo la strada. Il rumore si affievolì, poi tacque del tutto. «Eccomi sola», disse Orlando a voce alta, ora che nessuno la sentiva. Che il silenzio sia più profondo dopo un rumore richiede ancora conferma scientifica. Ma che la solitudine risalti maggiormente dopo il corteggiamento, molte donne sarebbero disposte a giurarlo. Mentre il rumore di ruote della carrozza dell'arciduca si spegneva lontano, Orlando sentiva allontanarsi sempre più da lei un arciduca, e non gliene importava, un titolo, e non gliene importava, la sicurezza e gli agi della vita coniugale, e non gliene importava, ma sentiva allontanarsi da lei la vita e un amante. «La vita e un amante», mormorò. E avvicinatasi allo scrittoio, intinse la penna nell'inchiostro e scrisse: La vita è un amante. Verso senza ritmo né legame con quel che precedeva. Qualcosa sul miglior modo di lavare le pecore per prevenire la rogna. Rileggendo, arrossì e ripeté: La vita è un amante. Poi, mettendo via la penna, andò in camera da letto, si mise davanti allo specchio e si aggiustò le perle intorno al collo. Poi, dato che le perle non fanno molta figura su un vestito da mattina di cotonina a fiori, lo cambiò con uno di taffetà grigio tortora, poi con un altro color fior di pesco, poi con uno di broccato rosso vino. Forse ci voleva un tocco di cipria, e i capelli le sarebbero stati meglio, così, sulla fronte. Poi si infilò un paio di scarpine a punta e si mise al dito un grosso smeraldo. «Ecco», disse quando ebbe finito, e accese i candelabri d'argento ai lati dello specchio. Quale donna non si sarebbe illuminata vedendo ciò che Orlando vide ardere nella neve? Perché la superficie dello specchio era tutta una distesa di neve e lei era come un fuoco, un roveto ardente, e le fiamme delle candele le cingevano la testa di foglie d'argento. Ovvero lo specchio era un'acqua verde e lei una sirena fasciata di perle, un'ondina in una grotta. E al suo canto i rematori si sporgevano dalle navi e cadevano giù, giù per abbracciarla. Era così oscura, così luminosa, così dolce, così straordinariamente seducente che era davvero un gran peccato che non ci fosse lì qualcuno per dirle chiaro e tondo: Diavolo, signora, siete la grazia in carne e ossa. Il che era la verità. Perfino Orlando, che non era vanitosa, lo sapeva, perché sorrise di quel sorriso involontario che hanno le donne quando la loro bellezza, quasi fosse loro estranea, assume la forma di una goccia che cade o di una fonte che zampilla e appare loro improvvisa nello specchio. Di quel sorriso lei sorrise e per un momento stette in ascolto, ma udì solo il vento tra le foglie e il cinguettio dei passeri. E allora sospirò. La vita, un amante. E con straordinaria rapidità ruotò sui tacchi, si strappò le perle dal collo, si sfilò le sete dal corpo e, ritta nei semplici pantaloni corti di seta nera di un comune gentiluomo, suonò il campanello. Quando venne il domestico, ordinò di far attaccare immediatamente il tiro a sei. Affari urgenti la chiamavano a Londra. Meno di un'ora dopo la partenza dell'arciduca era in viaggio. E mentre viaggia coglieremo l'occasione, poiché il passaggio era un semplice paesaggio inglese, di quelli che non hanno bisogno di descrizione per attirare l'attenzione del lettore, meglio di quanto abbiamo potuto farlo finora su un paio di osservazioni cadute qua e là nel corso del racconto. Per esempio, non sarà sfuggito che Orlando, interrotta, aveva nascosto il manoscritto. Poi, che si è guardata a lungo assorta nello specchio. E ora, mentre viaggiava verso Londra, potremmo vederla trasalire e reprimere un grido quando i cavalli galoppano troppo veloci. Tanta modestia intellettuale, tanta vanità personale, tanti timori per la propria sicurezza, tutto ci sembra suggerire che ciò che abbiamo detto poco fa sull'assenza di cambiamento da Orlando uomo a Orlando donna non sia più vero in assoluto. Come tutte le donne, stava diventando un po' più modesta riguardo alla sua intelligenza e un po' più vanitosa riguardo alla sua persona. Certe sensibilità si sviluppavano, altre si ottundevano. Il cambiamento d'abito, dirà qualche filosofo, aveva molto a che fare con tutto questo. Per quanto sembri una pura inezia, la funzione degli abiti, dicono, non è solo quella di tenerci caldo. Cambiano la nostra visione del mondo e la visione che il mondo ha di noi. Ad esempio, quando il capitano Bartolus aveva visto la gonna di Orlando, le aveva fatto preparare immediatamente una tenda, aveva insistito perché prendesse un'altra fetta di manzo e l'aveva invitata a scendere a terra con lui nella sua scialuppa. Di sicuro, lei non avrebbe ricevuto tutte quelle attenzioni se la stoffa delle sue gonne, anziché svolazzare, le avesse modellato le gambe in forma di calzoni. E quando si ricevono delle attenzioni, si è tenuti a ricambiare in qualche modo. Orlando si era inchinata, aveva condisceso, aveva lusingato i sentimenti del brav'uomo, come certo non avrebbe fatto se i semplici pantaloni di lui fossero stati una gonna e la giubba gallonata un corpetto di raso. Così appare molto fondata la tesi che sono gli abiti a portare noi e non noi a portare gli abiti. Possiamo far sì che modellino bene un braccio o il seno, ma essi ci modellano a piacer loro il cuore, il cervello e la lingua. Così, dopo che lei ebbe portato le gonne per un po', si notò un certo cambiamento anche nei tratti del viso, come il lettore potrà verificare guardando la figura. Se paragoniamo il ritratto di Orlando uomo con quello di Orlando donna, vedremo che, per quanto entrambi siano indubbiamente la stessa e unica persona, certi mutamenti ci sono. L'uomo ha la mano libera per stringere la spada, la donna la usa per impedire al raso di scivolarle dalle spalle. L'uomo guarda il mondo bene in faccia, come se fosse creato per suo uso e forgiato per il suo piacere. La donna gli lancia un'occhiata obliqua, ambigua, perfino sospettosa. Se avessero portato entrambi gli stessi abiti, forse il loro aspetto sarebbe lo stesso. Fin qui l'opinione di alcuni filosofi e dei più saggi, ma nel complesso noi propendiamo per un'altra. La differenza tra i due sessi, per fortuna, è profonda. Gli abiti non sono che il simbolo di qualcosa nascosto nel profondo. Fu un mutamento avvenuto nell'intimo di Orlando a indurla a scegliere vesti e sesso femminili. E forse con questo esprimeva solo un po' più francamente del solito. La franchezza era il nocciolo della sua natura, qualcosa che succede a tanti ma che non viene così facilmente espresso, perché qui giungiamo a un nuovo dilemma. I sessi, per quanto diversi, si mescolano. Non c'è essere umano che non oscilli da un sesso all'altro e spesso sono solo i vestiti a serbare l'apparenza maschile o femminile. Mentre il sesso profondo è tutto l'opposto di quello superficiale. Nessuno ignora le complicazioni, le confusioni che ne risultano, ma qui abbandoniamo la questione in generale e osserviamo solo gli strani effetti che ebbe nel caso particolare di Orlando. In lei era proprio quel miscuglio di uomo e di donna a dare al suo comportamento un carattere spesso imprevisto. Chi era curioso del suo sesso si chiedeva ad esempio perché, se Orlando era una donna, non impiegava mai più di 10 minuti a vestirsi, e i suoi vestiti non erano scelti un po' a caso e a volte quasi trasandati, ma aggiungevano, non aveva nessuno dei formalismi dell'uomo né il suo amore per il potere. Aveva un cuore troppo tenero, non sopportava di veder bastonare un asino né affogare un gattino. D'altra parte, osservavano, detestava i lavori domestici. Si alzava all'alba ed estate era già in giro per i campi alla prima luce. Nessun agricoltore la sapeva più lunga di lei sui raccolti. Teneva testa ai migliori bevitori e amava i giochi d'azzardo. Cavalcava bene ed era capace di guidare un tiro a 6 al galoppo sul ponte di Londra. Eppure, per quanto audace e attiva come un uomo, fu notato che alla vista di una persona in pericolo cadeva vittima dei tremori più femminili. Scoppiava in lacrime alla minima occasione. Non era portata per la geografia, trovava insopportabile la matematica e sosteneva delle assurdità più diffuse tra le donne che fra gli uomini, come ad esempio quella che viaggiare verso sud comporti l'andare in discesa. È dunque assai difficile dire, e non possiamo deciderlo ora, se Orlando fosse più uomo o più donna, perché ora la sua carrozza sobbalzava sul selciato, era arrivata alla sua casa in città. Fu abbassato il predellino, furono spalancati i cancelli di ferro. Entrava nella casa paterna, a Blackfriars, che per quanto la moda andasse disertando i sobborghi, era pur sempre una dimora piacevole e vasta, coi giardini che scendevano fino al fiume, e un bel boschetto di noci per passeggiare. Qui si stabilì e cominciò subito a guardarsi intorno in cerca di ciò che era venuta a cercare, cioè la vita e un amante. Sulla prima poteva esserci qualche dubbio. Il secondo lo trovò senza la minima difficoltà 2 giorni dopo il suo arrivo. Era giunta in città di martedì. Il giovedì uscì per una passeggiata nel mall, come allora usavano le persone di rango. Aveva fatto appena un giro o due sul viale, che subito attirò l'attenzione di un gruppo di plebei, gente che andava là a spiare i patrizi. Mentre li oltrepassava, una popolana con un bimbo in braccio si fece avanti. Fissò tranquillamente in faccia Orlando e gridò agli altri: Guardate un po' qua se questa non è Lady Orlando. I suoi compagni le fecero cerchio intorno e in un attimo lei si trovò al centro di un crocchio di cittadini curiosi e di mogli di bottegai, tutti smaniosi di vedere da vicino l'eroina del celebre processo. Tanto era l'interesse che il caso aveva suscitato nell'animo popolare. Rischiava di trovarsi a mal partito, pressata dalla folla. Aveva dimenticato che alle signore non è consentito passeggiare da sole in luoghi pubblici. Se un gentiluomo di alta statura non si fosse fatto subito avanti offrendole l'appoggio del suo braccio. Era l'arciduca. Nel vederlo fu presa dalla disperazione, con una sfumatura di divertimento. Non solo il magnanimo nobiluomo l'aveva perdonata, ma, per dimostrarle che aveva preso con spirito lo scherzo del rospo, aveva fatto fare un gioiello a forma di quel rettile, che insisté per farle accettare, mentre l'accompagnava alla carrozza insieme a una rinnovata dichiarazione d'amore. Fosse la folla, fosse l'arciduca, fosse il gioiello, rientrò a casa dell'umore più nero. Era dunque impossibile passeggiare senza essere semisoffocata dalla folla, senza affrontare il dono di un rospo ed essere chiesta in sposa da un arciduca. Il suo giudizio sulla faccenda migliorò la mattina dopo, quando trovò sul tavolo della colazione una mezza dozzina di biglietti delle più nobili dame del paese: Lady Suffolk, Lady Chesterfield, Lady Salisbury, Lady Tavistock e altre, che nel modo più cortese ricordavano antichi legami tra le loro famiglie e chiedevano l'onore di conoscerla. Il giorno dopo, un sabato, Molte di queste grandi dame vennero a farle visita di persona. Il martedì, verso mezzogiorno, i loro valletti recarono inviti a vari ricevimenti, pranzi, feste di prossima realizzazione. Cosicché Orlando fu lanciata senza indugio, e non senza spruzzi e schiuma, sulle acque del bel mondo londinese.